Adesso basta, stiamo arrivando. Dopo l'appuntamento lanciato dal palco di Renoiz 2015, tra compagne ci siamo già incontrati in due riunioni avvenute nello spazio occupato dalle cagne sciolte. La volontà collettiva è di continuare tra compagne la discussione e il percorso di lotta contro la violenza, attraversando altri spazi occupati e autogestiti di Roma. Un percorso itinerante e sconfinante, aperto ed eterogeneo, che coinvolga le compagne dei diversi spazi e tante singole in un clima di accoglienza e riconoscimento reciproco, mirato a creare tutte insieme spazi accoglienti, anche in quei posti che purtroppo per noi non lo sono più da tanto. Vieni a parlarne e prendi parola anche tu, domenica 18 ottobre presso il centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino alle ore 18. Partecipiamo in tante. Adesso basta, stiamo arrivando. كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار. Vi abbiamo fatto risentire questo spot quando sono le 28 minuti perché vorremmo insomma un po' approfondire questo argomento. Si sta parlando di un percorso di compagne, di donne che è partito diciamo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, che ha avuto un suo primo momento pubblico a Renoiz, sul parco di Renoiz, questo 29 agosto scorso, quando appunto un gruppo piuttosto nutrito insomma di compagne è salita sul palco per leggere un comunicato appunto elaborato collettivamente. La tematica è quella del sessismo negli spazi sociali, quindi negli spazi autogestiti, occupati, negli spazi nostri, negli spazi che viviamo quotidianamente per la nostra attività politica, per andare ad ascoltare musica, per andare a cena nelle trattorie, per andare nelle palestre per andare in palestra nelle palestre popolari, oppure si tratta anche di case occupate, di squat, quindi di luoghi dove si vive anche la quotidianità. E questo appunto ha avuto questo primo momento pubblico che ha lanciato un'assemblea, che una prima assemblea molto grande, molto partecipata, si è tenuta alle Cagne Sciolte il 24 settembre scorso. E in questo primo incontro, dove la voglia di parlare, di confrontarsi e di dire adesso basta è stata molto partecipata, è iniziato un percorso, c'è già stata un'altra assemblea e la prossima, come avete sentito dallo spot, sarà domenica prossima, domenica 18 ottobre al CSOA Forte Prenestino, dopo Terra Terra, nel senso che è la terza domenica del mese, quindi al Forte ci sarà Terra Terra e poi dopo le compagne degli spazi, le compagne, le singole sono invitate a partecipare. Forse possiamo spiegare perché al Forte Prenestino. Sì, diciamo che è un'assemblea questa molto partecipata, una situazione che non si vedeva da un po' di tempo, quindi diciamo che ha messo anche molto entusiasmo tra le compagne. È un'assemblea che coinvolge sia singole che spazi, donne che stanno dentro spazi misti, sia che donne che stanno in spazi separati, che si sono unite per cercare di trovare insieme una soluzione e fare delle riflessioni. La cosa e che ci sembrava necessaria, visto proprio l'argomento di queste assemblee, è portare questa riunione cittadina all'interno degli spazi, attraversarli con la nostra fisicità e con le nostre parole, con le nostre riflessioni, e cercare anche lì insomma di dare forza alle donne che stanno all'interno degli spazi o che si vogliono avvicinare o che hanno voglia di dialogare con noi. Questa penso sia un po' la parte più importante, insomma si sta iniziando, diciamo adesso arriviamo, perché veramente stiamo arrivando. Il primo passo che ci è stato proposto è stato proposto dalla compagna del Forte, poi ovviamente gireremo per vari spazi della città. Questo primo appuntamento diciamo che già una discussione un po' avviata, per cui è diviso in due spazi e... Sì, perché forse è insomma meglio. Un pezzo che ci siamo dimenticati è che questa assemblea parte da casi concreti, parte dalla realtà, parte dall'esperienza delle nostre vite e dal fatto che compagne prima in gruppi più piccoli e poi questo piccolo gruppo si è allargato, sono state, come dire, investite dalle richieste d'aiuto o le notizie di violenze che sono avvenute in vari spazi sociali di questa città. E quindi, come dire, un aspetto anche molto importante di questa assemblea è stato il clima di accoglienza e riconoscimento reciproco che tutte insieme siamo riuscite a costruire, tanto che compagne si sono sentite appunto di rendere collettivo pubblico quello che gli era accaduto e in questo modo hanno cercato una strada di lotta insieme. Quindi anche si cercherà insomma di portare avanti sia la discussione importante tra di noi su cos'è violenza, su come l'abbiamo vissuta nelle nostre vite, sulle esperienze anche di lotta che abbiamo fatto contro la violenza, ma contemporaneamente è molto importante anche, come dire, sono molto importanti anche le pratiche, cioè uscire con delle pratiche di lotta appunto. E quindi già nella prossima domenica ci saranno due gruppi, uno si occuperà appunto di pratiche e l'altro, che in qualche modo è una pratica anche questo, comincerà da una discussione a partire da due comunicati di due spazi sociali. Questi spazi sociali, si tratta di una sede politica di Parma, della rete antifascista di Parma e del presidio No Borders di Ventimiglia, il presidio che è stato violentemente sgomberato ormai una decina di giorni fa. Di cui insomma è stato molto parlato anche da questi microfoni. Questi due spazi politici sono stati accomunati dal fatto che in entrambi i casi, e non sono gli unici in Italia ovviamente, è stato denunciato all'interno di questi spazi una violenza. In entrambi i casi si trattava di uno stupro e entrambi questi spazi hanno hanno reso pubblico un loro comunicato stampa per noi insomma è molto ha delle similitudini e sono similitudini che noi vogliamo affrontare con un'analisi, una discussione politica collettiva perché noi pensiamo che l'antisessismo, come l'antirazzismo e come l'antifascismo debbano essere i cardini della politica delle compagne e dei compagni, altrimenti non è politica dal nostro punto di vista. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che il presidio No Border di Ventimiglia appunto è uscito con un comunicato nel quale si legge, tra le altre cose: non vogliamo entrare nel merito dei dettagli della questione, sicuri che ogni aspetto della vicenda sarà chiarito nelle sedi legali di pertinenza con le indagini della magistratura. Ecco, qui per noi c'è un problema molto grosso, perché questo tirarsi indietro rispetto all'evidenza della violenza in uno spazio, quando insomma noi sappiamo che la violenza non ha confini, non ha passaporto, è la violenza di maschi contro le donne, e si può uscire con parole chiare e condurre una lotta antirazzista, antifascista e antisessista al contempo, anzi si deve farlo, non si può fare una graduatoria tra le lotte. Sì, è un po' come, sembra sempre un po' come ricominciare da capo. Io ricordo questo enorme corteo nazionale che ci fu a Roma qualche anno fa, che partì proprio da questo tipo di riflessione e che aveva come parole d'ordine la violenza non ha passaporto, perché nasceva dallo stupro di una donna da parte di un immigrato, e da là quindi c'è stata una scrittura del pacchetto sicurezza in cui c'erano messe tantissime, insomma ci ricordiamo benissimo, in cui lo stupro di questa donna era stato usato in questo senso, il corpo delle donne evidentemente ancora una volta strumentalizzato. C'è la possibilità di riuscire a fare dei discorsi altri, insomma, e anche chiamarsi fuori da queste situazioni, e chiamando in causa, scusate il gioco di parole, chiamando in causa le forze dell'ordine, insomma, rispetto a degli spazi che fanno un discorso di autogestione così importante. Non vorrei usare termini forti, ma mi sembra anche un po' forse anche un po' fallimentare sotto certi punti di vista. Non vedo niente di male nell'ammettere non sono in grado probabilmente di affrontare questa situazione. Posso mettermi in campo, riflettere, chiamare qualcun altro, chiamare degli aiuti, chiamare intorno a me qualcuno che magari sicuramente già ci ha pensato, e riconoscere dei percorsi alti, perché questo ovviamente non è mai riconosciuto, nel senso, nel momento in cui magari le donne, le femministe sono forti, riescono a imporre con presenze notevoli, ecco, questi ragionamenti, ci sono loro che lo fanno. Nel momento in cui per qualsiasi motivo questa forza in quel momento non c'è più, o probabilmente si dà anche un po' per scontato che un ragionamento che è durato tanti anni e che si è fatto in tutti gli spazi sia stato acquisito, escono dei comunicati del genere abbastanza, non lo so, sconfortante, ecco. Comunque io mi sento, insomma, credo a nome del martedì autogestito da femministe e lesbiche, credo anche da parte di Radio Onda Rossa, ad esprimere tutta la nostra solidarietà a questa donna a cui è successa questa cosa, che è la cosa più rilevante, ovviamente, la mancanza più grossa di questo comunicato, a mio parere, ancora prima della frase, insomma, che vi abbiamo letto. Però non vogliamo neanche fare il caso, perché non stiamo parlando di un caso, stiamo parlando di una violenza strutturale, stiamo parlando di una violenza millenaria che attraversa tutto il mondo, e purtroppo però attraversa anche gli spazi autogestiti, gli spazi sociali, gli spazi dei compagni e delle compagne, ovviamente. Però insomma, se la nostra è un'ottica, la vogliamo chiamare rivoluzionaria, se non la vogliamo chiamare rivoluzionaria, la vogliamo chiamare di trasformazione dell'esistente, se vogliamo essere meno radicali. Comunque sia, se questo esistente lo vogliamo cambiare, o addirittura abbiamo una prospettiva rivoluzionaria, la violenza sessista, il sessismo, la violenza maschile sulle donne deve finire immediatamente, fino a che questa continua, evidentemente, e non è un contesto di trasformazione. Credo, insomma, queste, insomma, sono alcune delle riflessioni che ci siamo fatte, e noi stiamo facendo un breve resoconto a due voci di una situazione e di un ragionamento molto collettivo, e quindi vorremmo che non sentiste solo le nostre voci, ma magari continueremo a parlare di questo percorso nei prossimi martedì, cercando di dare voce a più donne possibile che stanno facendo questo percorso. E intanto, appunto, c'è questo appuntamento domenica prossima, appunto è un appuntamento importante. Abbiamo appunto deciso di andare in spazi negli spazi sociali di questa città, perché fra l'altro, insomma, una delle cose che ci siamo dette più volte è che molti di questi spazi non sono ritenuti attraversabili dalle compagne, nel senso che non ci si vive con agio, non ci si sente in un territorio accogliente. E il nostro primo atto, appunto, è quello di muoverci noi in qualche modo come riappropriarci anche di spazi sicuri. Non so se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, altrimenti, insomma, l'appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 18 al CSOA Forte Prenestino a Centocelle in via Federico Del Pino.